pietra non è sempre presente, fa da contorno fuoco nella mente. Per pace che ormai non c'è più, ma nel suo vagare la traccia permane. La mente del solista non è mai pulita, molto ci piace ed è sempre gradita. Base menanti brutto, tengono il tempo e fanno proprio di tutto. Siamo noi, il piacere è nostro e siamo i GAP. Uniamo le menti, l'udite il rumore, G e 4P suoniamo noi.